Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore in questi termini. Così dice il Signore, Dio di Israele: scrivi tutte queste cose che io ti ho detto in un libro, perché ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io cambierò la sorte del mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, perché li ricondurrò nel paese che io diedi ai loro padri e l'erediteranno. Queste sono le parole che disse il Signore ad Israele e Giuda. Così dice il Signore: grido di terrore udimmo, di spavento e non di pace. Informatevi e considerate se un maschio può partorire. Perché mai vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come una partoriente? Perché s'è mutato ogni volto in pallore? Oi, quanto è grande quel giorno, è senza pari. Tempo di angustia è per Giacobbe, tuttavia da essa sarà salvato. In quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, frantumerò il suo giogo dal suo collo e spezzerò le sue catene, sicché gli stranieri non lo rendano più schiavo. Essi serviranno al Signore loro Dio e a Davide loro re, che io susciterò per loro. E tu non temere, o servo mio Giacobbe, oracolo del Signore, e non spaventarti, o Israele, perché ecco, salvo te da paese lontano e la tua progenie dal paese del suo esilio. Ritornerà Giacobbe, vivrà tranquillo e sicuro, senza che alcuno lo disturbi. Sì, io sarò con te per salvarti, oracolo del Signore. Io farò sterminio di tutte le nazioni dove ti ho disperso, ma non farò sterminio di te. Ti castigherò, però con giustizia, e non ti lascerò impunito del tutto. Così, infatti, dice il Signore: inguaribile è la tua ferita, incurabile è la tua piaga. Non c'è chi giudica la tua causa. Per la tua piaga non hai medicine che guariscano. Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticato e più non ti cercano, perché con percossa da nemico ti ho colpito, con castigo spietato. Per la tua grande iniquità si erano moltiplicati i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Inguaribile è il tuo dolore. Per la tua grande iniquità si erano moltiplicati i tuoi peccati. Perciò ho fatto queste cose contro di te. Però tutti i tuoi divoratori saranno divorati. Tutti i tuoi oppressori andranno in schiavitù. I tuoi saccheggiatori diverranno un saccheggio, e tutti i tuoi depredatori li darò in preda. Sì, io curerò la tua ferita, e dalle tue piaghe ti guarirò, oracolo del Signore. Sebbene ti chiamino ripudiata, Sion, colei che non ha chi la ricerchi, così dice il Signore: ecco, farò cessare l'esilio delle tende di Giacobbe, e delle sue dimore avrò compassione. Sarà anche ricostruita la città sulle sue rovine, e il palazzo del suo diritto sarà stabilito. Uscirà da essi una lode e voce festante, li farò moltiplicare e non diminuire, li onorerò senza umiliarli. I suoi figli saranno come per il passato, e la loro assemblea dinanzi a me sarà stabile, mentre visiterò tutti i loro oppressori. Il suo principe sarà uno di essi, e il suo dominatore di mezzo ad essi uscirà. Lo farò avvicinare e s'appresserà a me. Chi infatti è colui che pignorerà la propria vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. Voi sarete per me qual popolo, ed io sarò per voi qual Dio. Ecco, la burrasca del Signore scoppia furiosa, burrasca turbinante sulla testa degli empi si aggira. Non si ritirerà l'ardore dell'ira del Signore finché egli abbia compiuto e realizzato i disegni del suo cuore. Al termine dei giorni lo comprenderete.